«È una bravissima donna», mi disse il signor di Garmant della principessa di Parma, «e poi nessun'altra sa essere gran signora come lei». Mentre venivo presentato alle donne, c'era un signore che dava svariati segni d'agitazione. Era il conte Annibal de Brouté Consalvi. Arrivato in ritardo, non aveva fatto in tempo ad informarsi sui commensali e quando ero entrato nel salotto, vedendo in me un invitato che non apparteneva al giro della duchessa e doveva dunque avere titoli assolutamente straordinari per penetrarvi, si era ficcato il monocolo sotto l'arco ricurvo del sopracciglio, pensando che questo l'avrebbe aiutato, ben più che a vedermi, a discernere quale specie d'uomo io fossi. Sapeva che quello di Madame de Guermantes era, prezioso appannaggio delle donne veramente superiori, un autentico salotto, il che significa che di tanto in tanto aggiungeva alla gente del suo mondo qualche personalità portata di recente alla ribalta dalla scoperta di un farmaco o dalla produzione di un capolavoro. Il Faubourg Saint-Germain era ancora sotto l'effetto della notizia che, al ricevimento per il re e la regina d'Inghilterra, la duchessa non si era peritata ad invitare dettagli. Le donne più brillanti del Faubourg stentavano a consolarsi di non esserci state, tanto le avrebbe deliziate un incontro con quel genio bizzarro. Madame de Courvoisier sosteneva che ci fosse anche Ribaud. Era un'invenzione destinata a far credere che Orian cercasse di ottenere per il marito la nomina d'ambasciatore. Infine, per colmo di scandalo, con una galanteria degna del maresciallo de Saxe, il signor di Guermantes si era presentato al foyer della Comédie Française e aveva pregato Mademoiselle Reichenberg di recitare dei versi al cospetto del monarca, cosa che era realmente avvenuta e costituiva un fatto senza precedenti negli annali mondani. Fresco ancora il ricordo di tanti imprevisti che, d'altronde, lui che per un salotto era un vanto e, come la duchessa di Guermantes, ma al maschile una consacrazione, approvava incondizionatamente. Il signor di Brouté, nel domandarsi chi mai potessi essere, sentiva un campo vastissimo spalancarsi alle sue investigazioni. Per un istante gli attraversò la mente il nome di Vidor, ma decise che io ero troppo giovane per essere un organista e Vidor troppo poco importante per essere invitato. Gli parve più verosimile che fossi molto semplicemente il nuovo addetto alla legazione di Svezia di cui gli avevano parlato, e si apprestava a chiedermi notizie del re Oscar, dal quale aveva ricevuto, a varie riprese, un'ottima accoglienza. Ma quando il duca, nel presentarmi a lui, pronunciò il mio nome, il signor de Brouté, al cui orecchio esso risuonava per la prima volta, non ebbe più alcun dubbio che per trovarmi lì dovessi essere una qualche celebrità. Orianna era decisamente in gamba e conosceva l'arte di attirare le persone in vista nel suo salotto in una percentuale non superiore all'1%, ben inteso, altrimenti l'avrebbe declassato. Il signor di Brouté cominciò dunque a leccarsi le labbra e a fiutare con le sue narici di ghiottone l'appetito piacevolmente stuzzicato non solo dal buon pranzo che di sicuro l'attendeva, ma dalla natura di quella riunione, che la mia presenza non poteva mancare di rendere notevole e che gli avrebbe fornito uno stimolante argomento di conversazione per la colazione dell'indomani dal duca di Chartres. Non aveva ancora appurato se mi si dovesse la scoperta di un siero contro il cancro o la paternità del lavoro di cui stavano per iniziare le prove al Théâtre Français, ma, grande intellettuale e appassionato di racconti di viaggio qual era, moltiplicava a mio beneficio inchini, cenni d'intesa, sorrisi filtrati dal monocolo, o nell'errata convinzione che un uomo di valore l'avrebbe stimato di più se fosse riuscito a inculcargli l'illusione che per lui, conte di Brouté Consalvi, i privilegi del pensiero non erano meno degni di rispetto di quelli della nascita, o, semplicemente, per necessità e difficoltà di esprimere la sua soddisfazione, per ignoranza della lingua in cui parlarmi, più o meno come se si trovasse in presenza di alcuni indigeni di una terra sconosciuta dove fosse approdata la sua zattera e con i quali, sperando in un profitto, cercasse, senza smettere di osservare curiosamente i loro costumi, né interrompere le dimostrazioni d'amicizia, né tralasciare d'emettere, come loro, acute grida di benevolenza, di scambiare uova di struzzo e spezie con perline di vetro. Dopo aver corrisposto meglio che potessi alla sua gioia, strinsi la mano al duca di Châtellerault, avendolo già incontrato da Madame de Villeparisis, della quale egli mi parlò come d'una vecchia volpe. Il duca era estremamente germant per la biondezza dei capelli, il profilo arcuato, le piccole alterazioni della pelle e delle guance, caratteristiche che si vedono già tutte nei ritratti della famiglia pervenutici dal XVI e XVII secolo. Ma, poiché non amavo più la duchessa, la sua reincarnazione in un giovane uomo era, per me, sprovvista di qualsiasi fascino. Leggevo l'uncino disegnato dal naso del duca di Châtellerault come la firma di un pittore che avessi studiato a lungo, ma non mi interessasse più. Salutai il principe di Foix e, per disgrazia delle mie falangi, che ne uscirono contuse, le abbandonai alla morsa della stretta di mano alla tedesca, accompagnata da un sorriso ironico e bonario, del principe di Pfaffenheim, l'amico del signor di Norpois, il quale, per la mania dei soprannomi tipica di quell'ambiente, era chiamato universalmente il principe Fon, tanto che lui stesso si firmava principe Fon o, scrivendo agli intimi, Fon. E ancora, a rigore, era un'abbreviazione comprensibile a fronte della lunghezza di un nome composto. Meno facilmente ci si rendeva conto delle ragioni che determinavano la sostituzione di Elisabeth, a volte con Lily, a volte con Babette, così come, in un altro ambiente, pullulavano i Kikim. Ci si può spiegare che uomini, peraltro abbastanza frivoli e oziosi, avessero adottato che per non perdere il loro tempo a dire Montesquieu, ma non si vede che cosa guadagnassero a chiamare un cugino Dunant invece di Ferdinand. Non bisogna credere, del resto, che nel foggiare soprannomi germant procedessero invariabilmente per ripetizione di una sillaba. Per esempio, la contessa di Montpeyroux e la viscontessa di Velluet, due sorelle di smisurata corpulenza, si sentivano chiamare ogni volta, senza minimamente offendersi e senza che nessuno si sognasse di sorridere, tanta era l'abitudine, piccina e picciò. Madame de Guermantes, che adorava Madame de Montpeyroux, se avesse saputo di una sua grave malattia, avrebbe chiesto, singhiozzando alla sorella, «È vero che piccina sta molto male?» Madame de Leclin, dato che portava i capelli raccolti in due bandeux che le facevano scomparire le orecchie, veniva chiamata abitualmente digiuno. A volte si limitavano ad aggiungere una A al nome o al cognome del marito per designare la moglie, poiché l'uomo più avaro, più sordido, più inumano dell'intero Faubourg si chiamava Raphael, la sua incantevole sposa, il fiorellino che spuntava dalla sua roccia, si firmava sempre Raffaela. Ma questi sono solo piccoli saggi di innumerevoli regole, alcune delle quali potremo sempre all'occasione mettere meglio a fuoco. Chiesi al duca di presentarmi al principe di Agrigento. «Come? Non conoscete il nostro ottimo Grigri?» esclamò il signor di Guermantes e disse il mio nome al principe. Il suo, spesso citato da Françoise, mi era sempre apparso come una vetrata trasparente oltre la quale, investiti in riva a un mare violetto dai raggi obliqui di un sole d'oro, vedevo i cubi rosa di una città antica della quale non dubitavo che il principe, di passaggio a Parigi per un breve miracolo, fosse egli stesso, non meno luminosamente siciliano e gloriosamente patinato, il sovrano effettivo. Ahimè, il volgare Zerbinotto cui mi presentarono e che per salutarmi piroettò su se stesso con una pesante disinvoltura che egli stimava elegante, era indipendente dal suo nome come da un'opera d'arte che si fosse trovato a possedere, senza recarne su di sé alcun riflesso, senza nemmeno forse averla mai guardata. Il principe d'Agrigento era così totalmente sprovvisto di quanto potesse essere principesco e ricollegarsi ad Agrigento, da far supporre che il suo nome, completamente separato da lui, privo di qualsiasi rapporto con la sua persona, avesse avuto il potere di risucchiare tutto ciò che di vagamente poetico potesse trovarsi in quell'uomo, come in qualunque altro, racchiudendolo poi per sempre nelle sue sillabe incantate. Se questa era l'operazione che aveva avuto luogo, bisognava ritenerla perfettamente riuscita, perché non c'era più un solo atomo di fascino da spremere da quel parente de Guermantes. Egli risultava così, in pari tempo, il solo uomo al mondo che fosse principe d'Agrigento e quello, forse, che lo era meno di tutti. Era peraltro soddisfattissimo di esserlo, ma come un banchiere è soddisfatto d'avere molte azioni d'una miniera, senza affatto preoccuparsi se questa miniera risponda ai bei nomi di miniera Evanò o di miniera Primrose, o si chiami invece semplicemente miniera Premier. Intanto, mentre si esaurivano le presentazioni, che così lunghe da raccontare, iniziate al momento del mio ingresso nel salotto, non erano durate in realtà che pochi istanti, e Madame de Guermantes, in tono quasi supplichevole, mi diceva: «Temo proprio che Bazin vi stia stancando, trascinandovi così dall'una all'altra. Vogliamo che conosciate i nostri amici, ma soprattutto che non vi stanchiate, così tornerete spesso». Il duca, con un gesto abbastanza impacciato e timoroso, diede, come desiderava fare da un'ora, l'ora da me impiegata nella contemplazione degli Elstir, il segno che servissero in tavola. Bisogna aggiungere che mancava uno degli invitati, il signor di Grouchy, la cui moglie, nata Guermantes, era venuta per conto suo, giacché il marito doveva arrivare direttamente da una battuta di caccia durata tutto il giorno. Costui, discendente di quel signor di Grouchy del primo impero, del quale si disse, a torto, che la sua assenza all'inizio di Waterloo era stata la causa principale della disfatta di Napoleone, apparteneva a un'eccellente famiglia di insufficiente nobiltà, tuttavia agli occhi di certi fanatici. Così il principe di Guermantes, il quale alcuni anni dopo sarebbe stato meno esigente per se stesso, soleva ripetere alle nipoti: «Che disgrazia per quella povera Madame de Guermantes, la viscontessa di Guermantes, madre di Madame de Grouchy, non essere riuscita a maritare le figlie!» «Ma zio, la più grande ha sposato il signor di Grouchy!» «E lo chiamate un marito, quello! Per fortuna pare che lo zio François abbia chiesto la più piccola, così non rimarranno tutte zitelle!» Non appena impartito l'ordine di servire in tavola, in un vasto scatenamento rotatorio, multiplo e simultaneo, le porte della sala da pranzo si aprirono a due battenti. Un maggiordomo, che sembrava un maestro di cerimonie, s'inchinò davanti alla principessa di Parma e annunciò la nuova «La signora è servita», in un tono non dissimile da quello con cui avrebbe detto «La signora muore», ma che non gettò ombra di tristezza sull'assemblea, giacché fu con piglio sbarazzino e come d'estate a Robinson che le coppie si diressero una dopo l'altra verso la sala da pranzo, separandosi man mano che ciascuno raggiungeva il suo posto, dove un lacchè, da dietro, gli aggiustava la sedia. Madame de Guermantes, rimasta per ultima, venne verso di me perché l'accompagnasse a tavola, senza che io provassi un briciolo dell'imbarazzo che mi sarei aspettato, giacché, da cacciatrice cui una grande scioltezza muscolare facilita la grazia, essendosi evidentemente accorta che mi ero messo dalla parte sbagliata, ruotò con tanta precisione attorno a me che mi trovai con il suo braccio sul mio e fui naturalmente inquadrato in un ritmo di movimenti nobili e misurati. Ad essi mi uniformai con spigliatezza, proprio perché sapevo che i Guermantes non attribuivano a queste cose più importanza di quanta un vero sapiente, in casa del quale si è meno intimiditi che in casa di un ignorante, ne attribuisca al sapere. Altre porte si aprirono ed entrò fumante la zuppa, come se il pranzo si svolgesse in un teatro di burattini, abilmente manovrato, dove l'ingresso tardivo del giovane invitato mette in moto, ad un cenno del padrone, tutti gli ingranaggi.